L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddi, 8 minuti dopo le 12 in diretta con l'Altra Europa, come ogni settimana, per raccontare l'Europa delle persone, delle storie, delle possibilità e delle opportunità. Euronetplus.eu, il portale del network al quale apparteniamo, e come sempre vi consiglio di andare, di navigarlo per vedere, trovare tutti i dossier, tutti i servizi, tutte le inchieste relative a questa Europa. facebook.com/euronetplus, radio24 ancora, o chiocciola Federico Taddia, Twitter e Facebook, le nostre bacheche virtuali, lì potete trovare tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Ancora radio24.it, il nostro sito dove potete trovare i contributi extra e il podcast della puntata. Come sempre tanti ospiti, oggi viaggeremo molto con belle storie, quindi viaggi spaziali, perché nel senso di spazio andremo, ci inoltreremo nel grande nord europeo, ma viaggeremo anche nel tempo, di fatto andando alle origini di quel progetto che tanto amiamo, che è l'Erasmus. Tanti viaggi, ma partiamo da una parola chiave per noi dell'altra Europa, che è cultura. Yeah, my name is Nigel Jamieson and I'm the artistic director of the People's Opening of the Aarhus 2017 European City of Culture. We plan an enormous show that's going to run right through the city down to the harbour, and it's very much involving a huge cross-section of the people of Aarhus. We're working with 6,000 people who are each going to make a beautiful image of a Viking ship, and those Viking ships stretch from... Aarhus, 330.000 abitanti, siamo in Danimarca, tutto pronto perché oggi ci sarà la cerimonia inaugurale dell'anno europeo che la vede capitale culturale. Sono due le capitali europee della cultura, Aarhus appunto e Paphos a Cipro, dove andremo sabato prossimo, ma oggi ci concentriamo sulla Danimarca, su quello che sta accadendo in questa città, e lo facciamo insieme a Bente Sørensen, che è capo della comunicazione di Aarhus 2017. Ciao Bente, buon sabato. Ciao, buongiorno. Allora, Tanto Bent parla italiano e questo ci piace. Come mai che conosci l'italiano? Ah, ho passato 11 anni a Torino, ho lavorato a Torino per l'Unione Europea. Ok, quindi insomma lì hai approfondito la lingua. Qual è il clima in città oggi? C'è voglia, c'è aspettativa, c'è aria di festa? Aspettiamo 60.000 spettatori per il nostro grande spettacolo stasera, e abbiamo invitato tutto il Danimarca per questa festa, e abbiamo anche l'onore la nostra regina Margrethe e il primo ministro Lars Løkke Rasmussen e la ministra di cultura Mette Bock arrivano per aspettare l'apertura ufficiale della capitale europea. Mm-hmm. Abbiamo una grande festa stasera con migliaia di artisti, con cori, tanti di cultura. Facciamo stasera una parata con migliaia di partecipanti durante la città di Aarhus. Mm-hmm. E facciamo questa parata trasformata in un mare fluttuante di calore, luce e gente. Credo che sia un grande spettacolo. Lo credo anch'io, assolutamente. Sì. Rethink, ripensare lo slogan scelto per il vostro anno. Sì. Come mai questo slogan e come mai Aarhus ha vinto questo onore, questo privilegio di essere capitale europea della cultura? No, per questa nostra città è una città moderna e ha una grande cultura qui. E 5 anni fa, quando hanno fatto questa applicazione per l'Unione Europea, ha pensato fare un tema per il nostro anno come capitale della cultura. Abbiamo scelto il tema Rethink, facciamo ripensare al nostro mondo. È un tema e una mentalità sulla base di cambiamento, innovazione e coraggio, un modo progressivo di pensare e agire più intelligente per la futura. Quindi qualità della vita, sostenibilità, insomma temi forti per ripensare le nostre città e cultura, è tutto questo. Bente, ci ritroveremo sicuramente durante l'anno per conoscere quello che accadrà nei 12 mesi, ma ci sono un paio di appuntamenti che già ci dobbiamo segnare? Sì, abbiamo un grande spettacolo con il nostro Teatro Reale e il Museo Mosgaard. È un spettacolo con i vichinghi, Danimarca è famoso per i vichinghi. Facciamo un all'aperto impressionante spettacolo con un racconto esitante di vichinga. Questo spettacolo viene eseguito su un intorno di Mosca Museum, sorprendente, è occupato tetto di un grande ensemble del Teatro Reale. Aspettiamo un grande spettacolo anche qui. Beh, insomma, già sulla parola vichingo ci siamo tutti abbastanza eccitati anche noi, perché insomma è sicuramente un tuffo nella storia, nella fantasia, nell'immaginario, esatto. E ci piace. Dura un mese, 30 sera abbiamo questo performance sul coperto di Mosgaard Museum. Perfetto, grazie davvero Bente, buona inaugurazione, buon anno europeo della cultura e ci ritroviamo qui all'Altra Europa nelle prossime settimane. Ciao e buon sabato. Ok, grazie, ciao, Bente. Buon sabato a te. Ciao. Europost-it. Premio Carlo Magno. Hai tra i 16 e i 30 anni e lavori a un progetto dotato di una dimensione europea? Anche quest'anno il Premio Carlo Magno della Gioventù ricompensa i progetti che favoriscano la comprensione, promuovano un sentimento comune dell'identità europea e diano esempi pratici di cittadini europei che vivono in comunità virtuose. Il Premio Europeo Carlo Magno, giunto alla sua 10ª edizione, viene assegnato ogni anno dal Parlamento Europeo, congiuntamente alla fondazione del Premio Internazionale Carlo Magno di Aquisgrana. I primi classificati riceveranno la somma di 7.500 euro, i secondi di 5.000, mentre il terzo premio sarà di 2.500 euro. Inoltre i vincitori saranno anche invitati alla cerimonia di premiazione che si terrà ad Aquisgrana in Germania il 23 maggio. Hai tempo fino al 30 gennaio per registrarti all'edizione 2017 sul sito charlemagneyouthprize.eu. L'altra Europa. Una distesa di ghiaccio di oltre 8.000 metri quadrati nel nord dell'Europa, in Islanda, è il Vatnajökull, il ghiacciaio più grande d'Europa, una distesa di ghiaccio evento che verrà attraversata per la prima volta in inverno dall'esploratore italiano Alex Bellini, che con questa impresa vuole fare il suo appello per l'ambiente. Abbiamo il piacere di collegarci in diretta con Alex, che proprio in queste ore di sole, tra l'altro perché sono le poche ore di sole, proprio oggi sta iniziando la sua avventura. Ciao Alex, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno Federico, buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori. Grazie, è sempre un piacere sentirti. Ti stai preparando per... hai già messo le sci ai piedi? Ancora gli sci ai piedi no, ma se mi sentite un po' in affanno è perché sto cercando di chiudere bene gli scarponi da sci, che saranno poi quelli a cui agganceremo gli sci. Oggi sembra pronosticarsi una buona giornata, perché qui in Islanda, per chi ci sarà stato di tuoi ascoltatori, si ricorderà il fatto di quanto siano mutevole le condizioni. Stamattina ci siamo svegliati in una condizione di whiteout, quindi completamente visuale limitata. In questo momento invece il cielo azzurro sembra liberarsi un pochettino e addirittura si intravedono le prime creste di questo grande ghiacciaio Vatnajökull, sempre tutti quanti, immagino faranno fatica a pronunciarlo, però questo che sarà il teatro della nostra avventura. Siamo molto carichi, dall'altra parte come sempre c'è un po' di paura per l'ignoto, l'uomo deve sempre combattere contro la voglia di andare e la voglia un po' di stare un po', come dire, un passo indietro dall'ignoto, ma questo è poi il bello di esplorare, che poi alla fine è sempre esplorare un po' se stessi, un po' i propri limiti e i propri desideri. Quindi ecco, questa è in questo clima tranquillo ma deciso che partiamo. Esatto. Che si parte per questa avventura. Alex, sci ai piedi, una slitta con cui trainare l'equipaggiamento, una manciata di ore di luce al giorno, cosa ti aspettano? Cosa ti aspetta nelle prossime settimane? Nelle prossime settimane, Federico, ci aspetterà un sacco di vento. Infatti è questo l'elemento più minaccioso, perché al di là della neve, dei crepacci, comunque attraversare una zona molto isolata, ecco, sarà il vento quello che determinerà quanto potremo andare avanti, a che ora potremo cominciare, a che ora dovremo finire, e quindi sarà tutto scandito non dall'orologio ma quanto dalle volontà del vento. Alex, perché tutto questo? Tutto questo, Federico, perché se chi lo va a raccontare alle mie figlie o alle figlie delle mie figlie, che non potranno vedere questa roba qua che sto guardando con i miei occhi? È un po' prendere responsabilità nel mio piccolo per cercare di colmare quella distanza che separa le persone dalle conseguenze delle nostre abitudini. Con questo mi auguro di poter portare a casa un documento fotografico, video, un'esperienza diretta da raccontare, e proprio perché sulla base dei racconti, delle storie, le persone si sono evolute, e quindi vorrei contribuire un pochettino a far aumentare questa consapevolezza di questo mondo sempre più fragile di cui noi siamo completamente responsabili. E poi se non ci fosse un uomo a vedere quando il ghiaccio si spacca, quando il ghiacciaio urla dilaniandosi, possiamo mai dire che sia mai esistito questo ghiacciaio? Forse no. E quindi io per tutti voglio poter assistere a questo momento anche triste, perché qui in Islanda la gente piange, la gente è disperata, perché è un mondo sottosopra. Ieri abbiamo avuto valanghe d'acqua, proprio acqua a catinelle, in un momento dell'anno in cui invece tutti quanti si aspettano la neve. E questa mia esperienza si va ad aggiungere a quella che vivete in Italia, dalla Valtellina fino giù al sud Italia. E quindi credo che sia il momento per me, da esploratore avventuriero, agire non nel soddisfacimento di un bisogno personale, ma nella speranza che questa volontà che mi spinge verso l'esplorazione possa portare con sé un ritorno anche per altri. Certo, raccontare le conseguenze del cambiamento climatico, congelare il momento, freezethemoment.it, questo è il sito da dove potrete seguire Alex, oltre a tutti i suoi canali social, in questa avventura che vuole essere soprattutto una testimonianza. In bocca al lupo, Alex. Come ci si saluta in queste case? Buona neve, buon ghiaccio, buona sciata. Insomma, Federico, i lupi qua per fortuna non ci sono, quindi per me va bene buon vento, ok? Buon vento. Che il vento sia sempre di poppa, un po' come è stato negli oceani, no? Che sia sempre un elemento a favore. Grazie, grazie, ciao. E a risentirci presto. A ciao. Presto, Alex. Ciao, buon vento davvero. Ciao. Europost-it. 18 borse di studio per laureati sardi e siciliani. A tutti i laureandi e neolaureati residenti nella regione Sicilia e nella regione Sardegna. Il Parlamento europeo offre 18 borse di stage in diversi campi a studenti di laurea triennale e specialistica. In particolare, si tratta di stage di 2 mesi dedicati ai giovani fino a 25 anni in possesso della laurea triennale e ai giovani fino a 30 anni che abbiano conseguito una laurea specialistica. Tutte le borse di stage prevedono un rimborso spese. I candidati sardi dovranno presentare domanda entro il 28 gennaio 2017, mentre i candidati siciliani entro il 31 gennaio. Tutte le istruzioni sul sito dell'europarlamentare Salvo Pogliese, salvopogliese.it, che insieme all'onorevole Stefano Maullu è stato promotore dell'iniziativa. Raccontare le storie dell'Erasmus per raccontare la storia dell'Erasmus in questo trentesimo compleanno, come già abbiamo ripetuto più volte nelle scorse puntate, un anniversario importante per questo programma europeo che è stata una vera bombola d'ossigeno per quello che riguarda l'Europa, questa cosiddetta generazione Erasmus, di fatto 4 milioni di persone che hanno avuto la possibilità di vivere sulla propria pelle l'esperienza della contaminazione culturale, dell'incontro, del vivere, formarsi in un'altra nazione. Ma raccontare i 30 anni dell'Erasmus vuol dire anche andare alle sue origini, capire qual è stata l'intuizione iniziale. Qualche settimana fa abbiamo incontrato Sofia Corradi, professoressa, pedagogista, che per prima forse ha capito quello che era il valore della mobilità studentesca, ma questa intuizione è potuta diventare un progetto, un qualcosa di concreto grazie a un altro italiano, a un dirigente della Commissione europea che per anni si è battuto proprio per rendere concreta questa idea. E si chiama Domenico Lenarduzzi, è nato in Italia, una storia travagliata che adesso andremo a conoscere. Abbiamo con noi il piacere di avere oggi Isabella, che è la figlia, proprio per rivivere con lei questa bella storia. Buongiorno Isabella, benvenuta all'Altra Europa. Grazie, buongiorno. E da Bruxelles, credo, vero? Assolutamente. Assolutamente. Come sta intanto papà? Beh, papà invecchia, è sempre così sorridente, ma però non riesce più a parlare con la facilità di una volta e dunque preferisce se prendo la parola io. E beh, insomma, ci sembra comunque doveroso raccontare questa bella storia che nasce a Torino, vero? Cioè, lui nasce a Torino non proprio per caso, ma lui è proprio un friulano doc. Sì. La mamma friulana, il papà friulano, dopo qualche anno torna in Friuli e da là che parte verso il Belgio a raggiungere il padre, che è partito in quanto minatore un anno prima, e dunque parte con la mamma e tutti gli altri 7 fratelli e sorelle e dunque arriva in uno dei paesi dove ci sono più miniere, che si chiama Charleroi, ed è là che cresce. Quindi insomma ha vissuto la migrazione, ha vissuto la mobilità di fatto, fisica proprio su se stesso, e credo che questa cosa l'abbia poi caratterizzato il suo pensiero educativo per tutta la sua storia professionale. Esattamente, perché bisogna ricordarsi, e troppo spesso gli italiani lo dimenticano, che gli italiani all'epoca, quando erano emigrati, per via economica, non erano rifugiati politici, erano veramente emigrati economici. Il papà di mio padre non poteva nutrire tutti i suoi figli, e dunque era un dovere per lui emigrare purtroppo dalla sua bella terra, e là sono stati accolti in modo, cioè c'era tanto razzismo, tantissimo razzismo nei confronti degli italiani. Mio padre, che era il più grande di tutti i bambini, ha sofferto tantissimo nelle diverse scuole che lui ha frequentato, perché non sapeva la lingua. Dunque automaticamente gli insegnanti lo mettevano in fondo alla classe, gli davano dei calcoli e non gli stavano facendo i corsi di lingua, e molto spesso soffriva di questo razzismo al quale lui reagiva con forza, e dunque si faceva cacciare da tutte le scuole, fin quando c'è un prete operaio che riconosce che forse c'è un potenziale in questo Domenico Lenarduzzi, e a questo punto va a trovare il collegio più chic degli gesuiti all'epoca, e lo va a presentare, dice: lui non sa pagare la quota di iscrizione, sì, ma propongo che durante tutte le ricreazioni, durante i weekend eccetera, Domenico faccia i servizi di pulizie, di patate, insomma tutte queste cose, per poter pagarsi gli studi. E là questo veramente ha cambiato la vita di mio padre, ha potuto uscire dalla miseria, è potuto innalzare il suo livello di cultura grazie all'istruzione, un'istruzione di qualità. E questo ha segnato tutta la sua vita, perché ha detto io voglio, quando è entrato in Commissione Europea, ha detto io voglio dare questa eccellenza a tutti quanti, tutti quelli che lo possono ricevere, che ne hanno voglia. E facendo, ha avuto a questo punto questa visione dicendo c'è solo la mobilità degli studenti e la mobilità degli insegnanti che può portare al più gran numero di allievi questa eccellenza dell'istruzione. Ha avuto proprio questa visione, ma è stato molto, molto difficile per lui arrivarci. Immagino. Isabella, le chiedo un minuto di pazienza, ci fermiamo okay. Per la pubblicità, poi torniamo immediatamente per conoscere il seguito di questa fantastica storia. Il 25 gennaio un gruppo scelto di ascoltatori di Melog avrà l'opportunità di visitare la mostra Homo Sapiens al MUDEC di Milano assieme a me. Per essere selezionati e far parte del gruppo degli eletti sarà necessario inviare due foto di se stessi alla mailbox melog@radio24.it. La prima foto dovrà essere del proprio passato e l'altra del presente. Gli ascoltatori dovranno indicare qual è stata la loro evoluzione o involuzione nel periodo che passa tra le due foto. Darwin ci ha insegnato che non sopravvive il più forte, ma il più capace ad adattarsi al suo ambiente. Ma noi quanto e come ci siamo adattati? 25 gennaio, ore 20:30 al MUDEC, via Tortona 56 Milano. Tutte le info su radio24.it. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa, siamo in collegamento con Bruxelles, con noi c'è Isabella Lenarduzzi, figlia di Domenico Lenarduzzi, dirigente, direttore della Commissione Europea, vero padre del progetto Erasmus. Isabella, ci stava dicendo insomma che non è stato facile convincere chi erano i capi di Stato, erano i vari ministeri dell'istruzione. Qual è stata la chiave vincente per arrivare al progetto? Dunque, mio padre ha condiviso quella visione con i suoi capi, i suoi colleghi, e tutti quanti dicevano ma l'istruzione non è un ambito dove la Commissione Europea ha una possibilità di azione. Allora mio padre è andato a guardare il Trattato di Roma, dove ha detto ma non è giusto, perché là c'è un articolo che dice che dobbiamo assicurare la libera circolazione dei beni e delle persone. Ma dal momento in cui una persona ha qualsiasi tipo di qualifica, visto che non è riconosciuta in un altro Stato membro, di fatto non ha la possibilità di essere mobile sul lavoro, eccetera. Dunque ha detto, noi dobbiamo, in quanto Commissione Europea, avere questa tematica anche dove possiamo fare qualcosa. A questo punto lui ha iniziato e la Danimarca ha portato la Commissione Europea in Corte di Giustizia dicendo che lei non voleva assolutamente che si parlasse di istruzione, formazione professionale, questo sì. Ma di istruzione generale assolutamente no. Mio padre, grazie al sostegno di Delors, è riuscito a vincere quella battaglia alla Corte di Giustizia, e poi sono iniziate tutte le negoziazioni prima con i ministri dell'istruzione. Sì. E quello, c'erano alcuni capi di Stato che non volevano sentir parlare. Sicuramente la Gran Bretagna, sicuramente la Danimarca, ma anche la Francia non ne voleva sentir parlare. Stessa cosa dal punto di vista dei rettori delle università. Non bisogna mai dimenticare che le università all'epoca non avevano nessuna voglia di collaborare. E dunque restava un gioco da fare, erano gli studenti. A un certo punto ho incontrato un matto fan d'Europa, sì, che si chiama Frank Bianchieri, che ha istituito, ha fondato questa prima associazione di studenti europei, e aveva delle antenne un po' ovunque nelle università. E quando mio padre ha condiviso quella visione, Franco ha detto ma cavolo, è esattamente quello che voglio io. E una settimana dopo questo aveva per caso un pranzo con François Mitterrand. Si è messo davanti a François Mitterrand e per tutto il pranzo gli ha parlato di Erasmus, di questa visione. E finalmente ha convinto François Mitterrand, e avendo lui convinto significa che anche se i rettori delle università erano sempre oppositori, gli stati hanno lasciato fare mio padre e a questo punto lui, considerato che le università non erano a favore, ha dato i soldi. Dunque, proprio i primi momenti di Erasmus era la commissione che dava direttamente i soldi di mobilità agli studenti. E questo ha creato un movimento all'interno di alcune università che dopo le università si sono chiamate. C'era un network di università, le università le più anziane d'Europa, che si chiama, questo network si chiama Coimbra, certo. con Bologna, con la Sorbonne, con Heidelberg, eccetera. Queste erano un po' in contatto l'une tra l'altra e si sono chiamate, hanno detto ma pure tu hai visto questi qua che vengono a chiederci di firmare delle la mobilità e c'è la commissione che paga, ma che cos'è questa cosa? Sono arrivati nell'ufficio di mio padre e mio padre ha detto io sono veramente felicissimo di vedervi. Cominciate, io vi do i soldi a voi, siete voi a questo punto che gestite la mobilità. E visto che erano le università le più prestigiose in assoluto, a questo punto le altre università hanno voluto seguire. Ed è così che Erasmus ha potuto insediarsi, direi, e cambiare completamente l'istruzione. Assolutamente. Isabella, un'ultima domanda. E questo nome, Erasmus, come nasce? Ma perché chiaramente mio padre era molto, molto interessato da tutto quello che si giocava nel Medioevo, dove questi fantastici intellettuali, loro non avevano frontiere, le più grandi università collaboravano tra di loro e questi savants, questi proprio i più grandi intellettuali andavano da un'università all'altra per prendere il migliore di loro. E ha detto io voglio questo però per un massimo di studenti, perché lui voleva non soltanto la mobilità degli insegnanti ma anche quella degli studenti e devo dire che tutti quanti, ma da Delors compreso, gli hanno detto ma tu sei un utopista matto, ma mai ce la faremo a mobilitare gli studenti pure, gli insegnanti ok, ma gli studenti no. E invece è questa la genialità della visione. L'Europa si cambia anche con un grande numero di persone che possono accedere alla mobilità e questi sono gli studenti. Erasmus per tutti, Erasmus dal basso. Questa è stata la visione di Domenico Lenarduzzi, fondatore del programma Erasmus, a cui tutti noi dobbiamo un grande grazie. Grazie anche a te Isabella Lenarduzzi per questa emozionante testimonianza. Grazie a te. Buona giornata, ciao. L'Europa, un'Europa per tutti, un'Europa dei cittadini, un'Europa della mobilità. Le parole di Domenico Lenarduzzi, visionario, fondatore del programma Erasmus. Parole moderne, parole che portiamo all'interno del Parlamento europeo. È stato eletto il nuovo presidente questa settimana, per la prima volta un italiano. C'è anche uno sconfitto, come sempre succede nella politica, però l'Europa è la stessa e lui è sicuramente una persona che l'Europa l'ama tanto e da sempre. Diamo il ben ritrovato qui all'Altra Europa, l'onorevole Gianni Pittella. Buongiorno Pittella. Buongiorno a voi. Buongiorno. Spero che la mia voce si senta bene perché c'è un certo rumore di fondo. Sì, spero che arrivi bene agli ascoltatori. Si sente bene, grazie. Allora, un momento importante per il Parlamento europeo o è solo una formalità il cambio della presidenza? No, è un momento importante perché, lo voglio dire da italiano con una punta di chiarezza, l'Italia ha riconquistato la presidenza del Parlamento europeo dopo 30 anni quando l'aveva avuto per l'ultima volta con Emilio Colombo, quando il Parlamento non era eletto direttamente dai cittadini, è un fatto molto importante. Io ho fatto gli auguri ad Antonio Tajani, che sicuramente farà molto bene il Presidente del Parlamento europeo, ed è importante anche politicamente, perché per la prima volta negli ultimi anni si è rotta la grande coalizione. Che cos'è la grande coalizione? L'accordo tra socialisti e popolari che reggeva diciamo la maggioranza del Parlamento europeo. Questo è un fatto storico, un fatto che è stato determinato anche dalla mia presa di posizione e dalla mia candidatura. Io penso che si possa collaborare, si debba collaborare sui singoli dossier per fare avanzare l'Europa, ma si debba anche mostrare differenze. Non siamo tutti uguali, la destra non è uguale alla sinistra, io sono fiero di alcuni valori che sono i valori socialisti, che non sono gli stessi valori della destra liberista, della destra che caccia gli immigrati, della destra che vuole il rigore nella economia, della destra che non riconosce i diritti umani. E questo deve venire fuori, perché altrimenti vengono avvantaggiate le forze antisistema e antieuropee, che presentano tutti gli altri come un tutt'uno indistinto e indifferenziato. Ma questo non è vero, e noi dobbiamo dare forza alle identità, sia pure in un clima di reciproco rispetto e di positiva collaborazione. Pitella, quanto è vicino o quanto è lontano oggi il Parlamento europeo dai cittadini? Molto lontano, e dobbiamo assolutamente fare il massimo per riavvicinare e ricoinvolgere i cittadini attraverso anche forme. Io avevo lanciato nella mia piattaforma presidenziale, tra virgolette, l'idea di un'agorà dei giovani. Penso che si debba anche andare incontro a questa esigenza di formazione. Avevo proposto di aumentare nel bilancio del Parlamento europeo i fondi per gli stage, per le ragazze e i ragazzi, anche in età pre-universitaria. Quelli che, i ragazzi che oggi hanno 15-16 anni e che si ritroveranno a votare nel 2019 per il Parlamento europeo hanno bisogno di essere formati, altrimenti in che modo esprimono il loro voto? C'è bisogno di un'educazione civica europea. Educazione civica che è fondamentale favorire la mobilità, insomma, è favorire, togliere tutte queste barriere che allontanano l'Europa e la politica dalle nuove generazioni e non solo. Un augurio, Pitella, per questa Europa. Quali sono le sfide imminenti delle prossime settimane? Ma le sfide sono quelle del lavoro. Innanzitutto lavoro. Creare lavoro significa cambiare politica economica, significa dare sostegno alle imprese, significa fare investimenti pubblici, perché non bisogna soltanto aspettare che i privati investano, dobbiamo mettere nelle condizioni i governi nazionali, togliendo questo cappio del patto di stabilità, di investire nella ricerca, nella formazione, nelle grandi reti. Secondo, governare i flussi migratori all'insegna della solidarietà. Terzo, portare un po' di giustizia fiscale, perché è assolutamente vergognoso che il panettiere di Forlì paghi più tasse della grande multinazionale americana. Questo è scandaloso ed è uno dei motivi per cui i cittadini si allontanano dall'Europa. E poi c'è la questione sociale e la questione della politica estera. Trump isola gli Stati Uniti, dall'altra parte abbiamo Putin e Erdogan, e c'è un grande spazio per l'Europa. Un'Europa che sappia fare una politica estera comune e che sappia guardare oltre i propri confini, all'America Latina, all'Africa, come partner forti di un nuovo grande protagonista mondiale, è quella che dobbiamo costruire. Buon lavoro, Pitella, grazie. Grazie a voi. Ci fermiamo, il traffico, poi ancora qua, con l'Altra Europa. L'Altra Europa. Listen to Ci avviamo verso la chiusura di questa puntata dell'Altra Europa e lo facciamo parlando di un progetto europeo che riassume anche alcuni dei concetti che abbiamo esternato prima, sia con l'onorevole Pittella, sia con Isabella Lenarduzzi. Si chiama Inside, un progetto Erasmus Plus che ha partner in Italia, in Bosnia e in Albania. Per capire di cosa si tratta, e credo che proprio in questi minuti ci sia un'azione in atto, ci colleghiamo con Mara Cattai, vice direttore della Caritas della diocesi di Vittorio Veneto in provincia di Treviso. Buongiorno Cattai. Buongiorno a voi tutti e grazie per questa opportunità. Che cos'è Inside? Allora, Inside è un progetto che nasce appunto grazie a Erasmus, e penso che ne abbiate già parlato, per cui è una promozione dell'istruzione e formazione per la gioventù, partito nel 2014 e dovrebbe termina nel 2020. Mm-hmm. E in particolare appunto segue l'educazione e la formazione di adulti, e soprattutto favorire nell'ambito dei giovani la loro collaborazione al territorio, creando sensibilità e anche affrontando situazioni difficili, lottando contro la povertà e l'emarginazione. Certo. Aiutando ai giovani appunto per una maggiore partecipazione. Mm-hmm. Per cui Inside è partita questa collaborazione tra Bosnia, Albania e l'Italia, un progetto di 2 anni che ci vede impegnati un po' per scoprire la nostra realtà del territorio, con lo scambio poi con la realtà di altri paesi, cercando di valorizzare anche quegli edifici che non hanno più una vita, che in qualche modo sono stati abbandonati. Ed è quello che stiamo facendo oggi. Adesso stiamo pranzando tutti insieme, sì, giovani e meno giovani, e stiamo recuperando questa casa dello studente che è stata chiusa per 10 anni. Ci sono anche ragazzi albanesi e bosniaci? No, in particolare no, qui siamo tutti italiani. Mm-hmm. Con i ragazzi della Bosnia-Herzegovina e dell'Albania ci troveremo dal 13 al 17 febbraio a Verona per dei laboratori di confronto su quello che è stato fatto. Ambiente lavoro, dialogo interculturale, ma inside, quindi dentro, quindi essere dentro, presenti nel dentro, territorio, presenti con le mani, che è quello che state facendo, esatto, oggi, perché adesso c'è il pranzo, ma appunto è una giornata di attività, di lavoro. E quali sono le conseguenze, qual è l'impatto reale sul territorio di azioni, di progetti come questo? Beh, soprattutto monitorare il territorio, raccogliere idee, iniziative, condividerle e dare soprattutto l'opportunità ai giovani di parteciparvi in prima persona. Mm-hmm. La bellezza, almeno l'esperienza che stiamo facendo adesso, è proprio l'incontro di generazioni e anche lo scambio di capacità differenti a seconda delle esperienze. Per cui è bello e arricchente. Che dà proprio l'idea di essere comunità, e poi c'è questa prospettiva dell'incontro con altri paesi, l'Albania e la Bosnia, che ci porterà ad agosto. Mm-hmm. Certo, che poi è un'Europa anche meno conosciuta, meno frequentata, quindi la bellezza anche, no, di questa scoperta, di questa conoscenza. Facebook.com, ovviamente è il portale di Facebook, la pagina Inside Plus, da lì potete trovare tutti i dettagli relativi al progetto, oppure caritasvittorioveneto.it è il sito di riferimento. Un grazie davvero a Mara Cattai, buon lavoro a lei. Grazie a tutti i ragazzi. A voi, buon lavoro. Buon sabato. Grazie altrettanto a tutti noi. Europostit. Diventa Junior Professional in Delegation. Ti piacerebbe capire come funziona una delegazione europea nel mondo e fare un'esperienza lavorativa all'estero? La Commissione europea ti offre la possibilità di diventare Junior Professional in Delegation attraverso uno stage retribuito di 9 mesi in una delle 140 sedi della Delegazione dell'Unione europea nel mondo. Per candidarsi, gli interessati dovranno essere cittadini europei laureati in una materia affine alle attività della delegazione. Dovranno inoltre avere un'ottima padronanza della lingua inglese o francese. Altre lingue ed eventuali esperienze professionali o attività di volontariato pregresse saranno valutate positivamente. Le candidature per gli stage, che inizieranno a settembre 2017, dovranno essere inviate entro il 31 gennaio seguendo le istruzioni riportate nella sezione EEAS and the Citizen del sito del Servizio Europeo per l'Azione Esterna, eeas.europa.eu. Questi sono i nostri Europost-it e come sempre vi ricordo che potete ritrovarli sul nostro sito radio24.it, da dove poter poi riascoltare anche la puntata o scaricare il podcast. Un grazie a tutta la squadra dell'Altra Europa, Valeria Bernardi oggi alla parte tecnica, Claudia Schiattone in assistenza. Il programma come sempre è stato scritto insieme a Silvia Righini e Miriam Lucchetti. L'appuntamento è a sabato prossimo, sempre alle 12. Se avete iniziative, se volete segnalarci progetti o altro, potete farlo attraverso la nostra mail l'altraeuropa@radio24.it, oppure mi trovate sui vari social. Il mio account è @FedericoTadia, Twitter e Facebook. Ancora buon sabato e grazie per essere stati con noi. Ciao! L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.